Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Sono di nuovo con voi e mi sembra che insomma, la settimana scorsa chiaramente più di una novità. Parleremo anche oggi di spending review, ossia revisione della spesa, non sul tema diciamo più di carattere politico. Oggi su tutti i giornali leggete le dichiarazioni del Premier Mario Monti in seguito alla dichiarazione del Presidente Confindustria Giorgio Squinzi, il quale poco fa, adesso ne parleremo, ha anche chiarito il suo pensiero dall'Assemblea Industriale di Lucca. Per quello che riguarda invece i temi, vi segnalo che le borse guadagnano a Milano, ma non nelle altre piazze europee, più 0,70 Milano, meno 0,25 Francoforte e Parigi, e Londra meno 0,50%, l'America è negativa di uno 0,36%. Che cosa è successo su Milano? A fronte dei titoli che perdono il 3,80 come A2A o il 2,80 come Finmeccanica o il 2,30 come ST Microelectronics e Todds, abbiamo invece in pregilo, domani avremo il nostro ospite chi rappresenta l'accordata Salini, l'ex banchiere di Goldman Sachs Claudio Costamagna. Il 12 luglio infatti si terrà il voto per capire se si mantiene l'attuale consiglio di amministrazione del gruppo Impregilo, quello diciamo a nomina Gavio, oppure se, come chiede il gruppo Salini, si vada verso la rielezione di un altro consiglio di amministrazione, quindi se vincerà Gavio o se vincerà Salini, per dirla in maniera molto brutale. Impregilo, in vista dell'assemblea, è più 6,60% a 3,20 €, Telecom Italia più 4%, Unicredit più 2,33, Ansaldo più 2,20, Mediolanum più 2,1, Intesa più 1,80, Banco Popolare più 1,5% come Atlantia e come Enel Green Power, l'1,40 lo guadagna la Popolare Emilia Romagna e Ubibanca più 1,20%. L'euro come sta? Sta a 1,23,06. In apertura parleremo del vertice di oggi, l'Eurogruppo, quello a cui tutti avevano fatto riferimento a fine giugno per quello che riguarda l'implementazione, come si chiama in gergo, ossia il rendere operative le decisioni prese dal vertice dei capi di Stato e di Governo dell'area euro, quello che ha varato lo scudo anti-spread, tanto per citare uno, che ha aumentato anche il potere della Banca Centrale Europea e del Fondo appunto Salva Stati, che ha detto di aver liberato risorse pari a 100 miliardi per le infrastrutture. Insomma, adesso bisogna, per usare un termine un po' parlamentare, trovare i decreti attuativi. C'è già un asse Francia-Italia sullo scudo anti-spread, Angela Merkel sta frenando, è necessaria un'unione politica prima, c'è chi dice che la Germania stia in silenzio e lascia andare avanti i paesi del nord, i piccoli paesi del nord. Molto interessante ieri l'intervista su Corriere della Sera a firma di Ferruccio De Bortoli, del direttore, da parte del governatore della Banca d'Italia, Visco, proprio su quanto spread è nostro e quanto spread invece deriva dall'attacco all'euro, e anche sul fatto che paesi che pesano pochissimo, che spendono pochissimo per questo scudo, per questo fondo di salvataggio, come la Finlandia, alzino la voce pur sborsando in maniera molto molto inferiore alla nostra soldi per salvare gli altri paesi. Quindi non è vero che poi la Germania paghi tutti i conti del resto d'Europa, né i paesi virtuosi paghino tutti i conti del resto d'Europa. Ma dicevo, il vertice di oggi parte, a mio avviso, un po' rilento, nel senso che già si dice, attenzione, non sarà questo il vertice in cui verranno implementati gli accordi presi il 28 e 29 giugno, bisognerà aspettare oltre la metà di luglio. Ma insomma, ne parleremo in apertura. 349-238-6666 per i vostri SMS, rapidamente le altre notizie in breve. No. Notizie in breve, dicevo, oltre alla, alla parte che riguarda le borse e i titoli che abbiamo citato, l'oro è in ribasso a $1,581 l'oncia, a segnalare una frenata o le attese di una frenata dell'economia a livello mondiale. Il petrolio resta sempre basso, a 84,92 dollari a New York. La Germania nel frattempo ha venduto all'asta titoli di Stato con, a sei mesi, BTP tedeschi, Bund a sei mesi, a un tasso record in negativo, meno 0,03%, il che vuol dire sostanzialmente che alla Germania conviene indebitarsi perché le costa meno. Un tasso negativo vuol dire che tu chiedi 100.000 euro per poi ritornarne 99.000. So che sembra assurdo, ma tale è il clima di sfiducia negli altri paesi e tale è la percezione di Germania come paese rifugio che si preferisce perdere un po' ma avere i soldi tra virgolette messi al sicuro. Ecco la logica dei tassi negativi: tu presti 100.000 euro alla Germania, o in questo caso 3 miliardi e 3, ma 100.000 euro per averne di ritorno 99.997, cioè qualcosa in meno, lo 0,03% in meno, con un vantaggio ovviamente per lo Stato tedesco, per cui è più conveniente praticamente indebitarsi che non trovare i soldi per se stesso, e per le imprese tedesche è più conveniente indebitarsi che non usare la cassa propria, perché se tu ti indebiti in realtà devi tornare tra virgolette meno soldi di quanti hai chiesto. Anche la Francia ha avuto per la prima volta un tasso negativo, sui titoli di Stato a sei mesi 2 miliardi di bot francesi hanno registrato un meno 0,06%. Nel frattempo poi arriveremo ai dati che riguardano il nostro spread rischizzato a 480 punti, poi sceso sotto i 470 punti, il rendimento nostro del BTP a 10 anni è sopra il 6%, 6,01%, la Spagna continua a pagare 560 punti in più rispetto alla Germania, il tasso dei BTP a 10 anni spagnoli è al 6,93%. E poi il Wall Street Journal avanza l'ipotesi di un'autorità europea che sotto l'egida della Banca Centrale Europea, quindi sotto il controllo della Banca Centrale Europea, avrà il compito di vigilare unicamente sulle grandi banche dell'area euro e quindi le 25 principali banche dell'area euro. Su questo, secondo il Wall Street Journal, si starebbe lavorando a Bruxelles. E la nuova agenzia avrebbe il compito di riferire periodicamente ai vertici della Banca Centrale Europea, quindi avremo 25 banche, le prime 25 banche europee più vigilate, con un'attenzione particolare. Le altre banche invece resterebbero sotto il controllo delle autorità nazionali, delle singole banche centrali di ogni paese. E parleremo anche delle dichiarazioni che ha fatto Mario Draghi, che ha sottolineato come la ripresa nell'area euro sia più lenta e più graduale, e ha chiarito che le riforme anche in Italia sono state coraggiose, ha definito buona la riforma del lavoro italiana. Un'ultima notizia prima di passare anche alle vicende tra politica ed economia: l'erogazione dei mutui, insomma, prosegue in Italia un crollo verticale dei mutui concessi per acquistare casa, meno 47%, anche il credito al consumo ha fatto meno 11% nei primi tre mesi dell'anno, e si evidenzia che solo nel 2014 il credito al consumo dovrebbe tornare a crescere, ma obiettivamente il calo è frutto sia, o sarà sicuramente frutto di una minore disponibilità delle banche a concedere mutui, ma anche di una minore richiesta. Abbiamo visto infatti crollare di oltre il 30% in questi mesi il numero di compravendite, cioè insomma chi può non vendere la casa non la vende adesso, o meglio aspetta di riuscire a venderla a prezzi per lui più interessanti, chi vuole comprarla non vuole pagare certi prezzi. Il crollo delle compravendite era netto e probabilmente anche da lì deriva il crollo dell'erogazione dei mutui. E veniamo adesso alla vicenda che riguarda il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, le sue dichiarazioni sul governo, sul voto al governo, sul no alla macelleria sociale, le accuse dell'asse con la CGIL Camusso, dell'essere troppo d'accordo con la CGIL. Allora, poco fa il Da Lucca, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha detto: non sono le mie dichiarazioni a far salire o scendere lo spread. Questa è la replica alle dichiarazioni di Mario Monti di ieri, che aveva detto: le dichiarazioni di Squinzi sono queste dichiarazioni che fanno salire lo spread. Sulla spending review, dove appunto la revisione della spesa su cui Squinzi aveva detto, aveva chiesto al governo di non fare macelleria sociale, non mi aspettavo queste critiche, sono polemiche basate, ha detto Squinzi oggi, poco fa, su frasi decontestualizzate dal discorso generale, il cui senso era diverso. Allora, cosa era successo? Lo scorso sabato, in un dibattito a Serravalle Pistoiese, assieme al segretario CGIL Susanna Camusso, Giorgio Squinzi, il presidente di Confindustria, aveva detto: dobbiamo evitare una macelleria sociale, ma si deve semplificare la pubblica amministrazione, perché dobbiamo evitare ridondanze che vanno eliminate. Allora sentiamo questo passaggio originale da quello che ha detto Squinzi sabato. Dal mio punto di vista dobbiamo evitare quello che proprio davanti al Presidente avevo definito macelleria sociale, però nello stesso tempo dobbiamo razionalizzare, dobbiamo semplificare la pubblica amministrazione, perché abbiamo sicuramente delle ridondanze che vanno eliminate. E questa è la frase originale. Tra l'altro, sentiamo però anche per correttezza quella che è stata la replica del Presidente del Consiglio Mario Monti, intervenuto al Cirque des Economistes a Saint-Provence, appunto la frase che oggi campeggia su tutti i giornali, ossia sono queste dichiarazioni, queste critiche che fanno salire lo spread. Il rischio di macelleria sociale della spending review, poi dato un voto al governo, il governo naturalmente si guarda bene dal dare voti alle parti sociali. Mi permetto come esponente del governo di invitare a non fare il danno delle imprese, dichiarazioni di questo tipo, come è avvenuto nei mesi scorsi, fanno aumentare lo spread, i tassi di interesse a carico non solo del debito pubblico ma anche delle imprese. Allora, visto che parleremo di spending review al di là di tutte le polemiche che sono intervenute, il botta risposta Squinzi Monti, sapete che il tema della spesa pubblica è un tema che ci sta particolarmente a cuore, nella logica di facciamo i compiti a casa noi e poi chiediamo alla Germania di smetterla di avvantaggiarsi della crisi di alcuni paesi. Però è chiaro che voglio dire, dobbiamo fare i compiti a casa, e quindi certi sprechi non sono consentiti e non sono accettabili. E sulla pubblica amministrazione, a mio avviso, i 4 miliardi stimati sono anche pochini rispetto ai 790 miliardi che spendiamo di pubblica amministrazione, che non vuol dire non salvaguardare i servizi, e su questo voglio essere molto netto. Secondo me è giusto sempre l'appello a non fare macelleria sociale, cioè nessuno deve tagliare, a mio avviso, sanità e scuola, perché ti tagli le gambe per il futuro. Però tutti i giorni raccontiamo di quanto nelle forze dell'ordine, di quanti sprechi anche gli enti locali, le regioni autonome, i comuni, le province, insomma gli avvistatori di neve in Friuli piuttosto che i maestri di sci da fondo in Sicilia. Ecco, su questo bisogna tagliare, perché sennò chiaramente, così come le scorte, a me poco interessa che sia di destra o di sinistra, ma la senatrice Finocchiaro ha fatto una figura peregrina a farsi beccare con la scorta che le teneva i sacchetti, poi può giustificarsi come vuole, ma dai, ma per favore. Insomma, così come le vicende che raccontiamo sulle spese della Camera e del Senato, sul fatto che il Quirinale costi due volte Buckingham Palace, ho capito che è Re Giorgio, ma sono tagliate le spese anche del Quirinale, Presidente della Repubblica. Ne parleremo nella seconda ora, perché avremo di nuovo ospite chi ha fatto la spending review per il governo britannico. È un italiano, è una società italiana, l'abbiamo già avuto ospite una volta, e ha fatto il sistema di consulenza, di software che serve al governo di Cameron per tagliare la spesa pubblica in Gran Bretagna. Chiaramente da noi non è stato ancora interpellato, però io avrei ancora un paio di notizie, poi partiamo con il vecchio gruppo su cos'è questa crisi. Devo dire che purtroppo torna in auge ancora una volta la regione Sicilia. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, 100 nomine dirigenziali in 2 mesi. Io devo fare l'applauso, adesso glielo facciamo fra un attimo, al governatore della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, perché insomma dal 26 aprile, quando ha annunciato che si sarebbe dimesso a fine luglio, cioè manca meno di un mese, il governatore non ha smesso neanche per un attimo di nominare collaboratori. Ora, già è strano che uno, se sa che ha 3 mesi di governo, abbia la voglia di nominare collaboratori. Sembra un po' voler piazzare le persone, ma il numero fa impressione: collaboratori, assessori, burocrati, consulenti. Detto ciò, quella che balza all'occhio è la nomina del presidente del Collegio dei Sindaci di Sicilia e Servizi, una delle partecipate della regione Sicilia più ricche, che si occupa di informatizzazione. Allora, il prescelto è Eugenio Trafficante. Ora dico, perché nome, non facciamo battute, però si chiama Eugenio Trafficante. Il problema è che in questo caso è nome nomen, perché il commercialista è agrigentino, è in carcere a Sciacca per stalking. Allora, qualcuno avrebbe dovuto comunicarci in tempo utile che il professionista designato era stato colpito da un provvedimento restrittivo, replica il commissario liquidatore della SPA Antonio Vitale. Io non so che cosa dire, ma faccio solo notare che la regione Sicilia ha 18.000 quasi dipendenti, più altri 20.000 collaboratori, cioè 39.000 persone che lavorano per la regione Sicilia. Si poteva trovare in altro modo, e ci deve spiegare il governatore Lombardo come mai ha scelto Eugenio Trafficante, commercialista dell'Agrigentino, in carcere a Sciacca per stalking. Cioè, questo è già in carcere. Un applauso alla scelta, se questo è lo spoiling system. Complimenti al governatore Lombardo. Quando è che se ne va a fine mese? Un applauso di così, che possa incitarlo a fare questa scelta tanto annunciata. Questa crisi, ma cos'è questa crisi? Allora, ne parleremo nella seconda parte di Focus Economia, però sulla spending review io faccio... riferisco alcune cose presenti oggi sul Sole 24 Ore. Per la cancelleria in materiale tecnico informatico, cioè penne, carta, fotocopiatrici, monitor, tastiere, insomma, qui siamo al delirio. La Lombardia nel 2011 ha speso 9 euro ogni 100 abitanti per la cancelleria della regione, no? Cancelleria, sono tutte queste cose. Il Piemonte ne ha spesi 55. Già tu dirai, ma che matite hanno in Piemonte? Che fotocopiatrici hanno in Piemonte? Che monitor hanno in Piemonte? Ma la Sicilia, non possiamo non citare anche stavolta, 102 euro. Allora, con 102 euro per abitante contro il meno di 10 euro in Lombardia, io non ho capito, sono tutte penne Cartier, Montblanc, fotocopiatrici di ultima generazione, tastiere ipertecnologiche. 102 euro ogni 100 abitanti, cioè un euro abitante contro i 10 centesimi per abitante che ha speso la regione Lombardia. Io non so più cosa dire. Pensate che l'Abruzzo ha speso per consulenze, indagini, gettoni di presenza 40 euro ogni 100 abitanti, che è buono. La Sardegna 680 euro per ogni 100 abitanti, cioè 6,8 euro ad abitante per consulenze, indagini, gettoni, contro i 40 centesimi che ha speso obiettivamente l'Abruzzo. Finisco con la pubblicazione su giornali e riviste per far conoscere le attività che svolge la regione. Il Lazio spende 3 euro all'anno ogni 100 abitanti, la Lombardia il doppio, 6 euro, la Calabria, che giustamente ha molto da pubblicizzare sui giornali, 11,3 euro per abitante, 4 volte quello che spende la Regione Lazio e il doppio di quello che spende la Lombardia. Il sospetto, chiaro che sono un sospetto da scacciare, è che magari con queste pubblicazioni non si compri anche atteggiamenti amichevoli della stampa, ma sappiamo che non è così, la stampa è perfetta, la stampa non sbaglia mai, e allora andiamo con la crisi, vai. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Sì, vedo che molti di voi ci chiedono consigli e spiegazioni. Ne parliamo, è tutto su Sole 24 Ore di oggi. Ci sono delle cifre pazzesche sulla spending review regione per regione. Lo dico perché non ha senso arrabbiarsi solo con Parlamento e Senato. Ha senso, ma non solo con loro. La ballata dell'euro, va là. Adriana Ceretelli da Bruxelles. Adriana, buonasera, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera. Io non so. Adriana? Pronto, pronto? Sì. Eccoci. Eccoci. Allora, la nostra ballata sull'euro l'hai sentita? No. No. Vabbè, te la facciamo risentire fra un attimo. Però vorrei capire che cosa sta emergendo, viste anche le dichiarazioni di Mario Draghi oggi, che insomma ha confermato come Presidente della Banca Centrale Europea, una situazione tutta in salita, la ripresa dell'area euro sarà graduale e più lenta, e l'eurozona farà passi per mantenere la moneta, non ci sono scorciatoie. Un passaggio di Draghi riguarda proprio invece anche il giudizio sulla spending review e la riforma del lavoro in Italia. Ascoltiamo questo passaggio e poi a te invece l'analisi di cosa potrebbe o cosa invece non potrebbe uscire da questo vertice, che mi sembra si stia un po' svuotando rispetto alle attese di fine giugno. Prima Draghi, però, su spending review e riforma del mercato del lavoro. Effective crisis resolution needs bold actions by central banks. Per trovare soluzioni efficaci ai periodi di crisi c'è bisogno di intraprendere azioni coraggiose. Vale per le banche centrali, ma anche per gli altri protagonisti, primi fra tutti i governi. Subito dopo lo scoppio della crisi, un certo numero di paesi europei e della zona euro hanno richiesto assistenza finanziaria e allo stesso tempo si sono impegnati nel perseguire le riforme necessarie. Visto che l'assistenza finanziaria può solo essere temporanea, la qualità delle riforme è assolutamente essenziale. È la qualità delle riforme che alla fine determina il successo di qualsiasi programma o piano. Oggi lo stato della crisi obbliga tutti i paesi a guardare in modo critico il proprio passato e obbliga tutti a considerare in modo oggettivo il futuro. È solo conoscendo il passato che i programmi di aggiustamento ora in atto in alcuni paesi possono essere compresi. Ripeto, è cruciale perseverare in riforme coraggiose e necessarie, anche in assenza di programmi specifici. Molti leader politici stanno adottando riforme coraggiose. Per esempio, le riforme in Italia per aumentare la competitività, ridurre il peso dell'amministrazione e aumentare la flessibilità del mercato del lavoro sono stati passi importanti. La spending review dell'Italia aiuterà il Paese a centrare gli obiettivi di bilancio. The country's spending review will help to achieve the fiscal targets. Eccola qua la nostra ballata dell'euro, Adriana Ceretelli. Allora, dimmi una prima cosa, ma è vero che la Germania con questo silenzio sta un po' tornando sui suoi passi o comunque temporeggiando, lascia andare avanti la Finlandia e altri paesi, sullo sfondo chiaramente quanto deciso nel vertice del 28-29 giugno, e quindi lo scudo anti-spread, liberare risorse sulle infrastrutture, i 100 miliardi complessivi, ma soprattutto lo scudo anti-spread e il nuovo ruolo dell'ISM. Adriana. Ma certamente la Germania ha le sue perplessità, quello che non le piace è l'idea di concedere qualche cosa senza diciamo condizioni aggiuntive. Naturalmente questo non era nei patti, anche se naturalmente il vertice come sempre ha delle espressioni ambigue per cercare appunto di chiudere in bellezza. Non le va di concedere diciamo qualche cosa ai paesi mediterranei che stanno rispettando i loro programmi di rientro, perché ha un'opinione pubblica totalmente ostile a nuovi salvataggi, a nuovi interventi da parte dei fondi salvastati, perché questi fondi non hanno risorse illimitate, certamente non sufficienti per salvare un colosso come l'Italia. E forse nemmeno la Spagna, se le diciamo necessità fossero superiori a quelle dichiarate, che sono di 62 miliardi, a fronte di 100 come massimo già concesso, ma ci sono alcuni che dicono che in realtà diciamo le necessità sarebbero superiori. Fatto sta che comunque stiano le cose, tutto questo penalizza chi già si sta sacrificando, sta facendo le riforme, si è messo sulla retta via, perché l'aumento degli spread ai livelli di oggi è certamente insostenibile per i rendimenti dei titoli di Stato. E quindi la situazione si ingarbuglia invece di facilitare. Le cose. Tant'è che c'è Adriana chi dice che in realtà da questo Eurogruppo, che tutti diciamo il 28-29, adesso la parte operativa, l'implementazione di questo accordo arriverà il 9 luglio, mi sembra che già si dica che bisognerà slittare dopo la metà di luglio. Certo, no? Certo, assolutamente sì, era quello che stavo dicendo, cioè sì, il 9 luglio oramai è una data, diciamo, una data in cui si discute, probabilmente si discuterà anche in modo piuttosto duro, ma la decisione slitterà sicuramente al 20 e già si parla di un possibile vertice il 25, non si sa se sulla Grecia oppure su altro, qualora non ci fosse un accordo. Quindi diciamo questo slittamento dei tempi certamente non favorisce la pacificazione dei mercati e complica i problemi ai paesi più deboli, ovviamente. Ecco, come tu citavi, c'è una ritrosia, un ripensamento, forse la Germania ha dovuto farli per lì buon viso cattivo gioco, poi ha mandato avanti la Finlandia, ma insomma sul tema delle banche in primo luogo, cioè cosa deve fare la Banca Centrale Europea e la possibilità per il Fondo Salvastati di procedere direttamente alla ricapitalizzazione delle banche. Mi sembra che poi, se andiamo ancora più nel concreto, il nodo vero e proprio, Adriana, sia il salvataggio delle banche spagnole. Cioè, sì. Da un lato si vuole evitare che Madrid debba mettere garanzie sovrane, perché se Madrid, sì, cioè se la Spagna mette garanzie, la Banca Centrale Spagnola garantisce per le banche fallite, Bankia, è chiaro che aumenta il debito spagnolo e lo spread torna a aumentare, cioè in realtà continua a aumentare, ad alimentare questo circolo vizioso, no? Perché tu garantisci, sì, per una banca, ti aumenta il debito perché quella banca lì te la devi mettere nel debito tuo e a questo punto i mercati ti bastonano ulteriormente, lo spread spagnolo aumenta ulteriormente, la Spagna ha sempre più difficoltà a ripagare il debito. Prego. Ma su questo proprio Draghi, diciamo, ha gettato acqua sul fuoco davanti al Parlamento dicendo che sì, certo, in attesa dell'ESM, cioè il fondo permanente, se la Spagna ha bisogno di soldi subito, dovrà agire l'attuale fondo, il quale non prevede la ricapitalizzazione diretta, quindi per forza la Spagna dovrà garantire per i soldi che le verranno dati per salvare le banche. Però, ha detto Draghi, tutto questo sarà molto temporaneo, il debito aumenterà, diciamo, il tempo necessario a far entrare in vigore l'ESM, a quel punto poi diminuirà il che per carità è una partita contabile chiarissima, però mi chiedo per i mercati quale sia no, la credibilità follia di una decisione di questo genere. A me sembra follia. Detto ciò, così va l'Europa. Sì, così va l'Europa, così è se vi pare, potremmo anche dire. Perché a me sembra che i tempi i mercati non li abbiano, lo spread a 4,70, oggi la Spagna di nuovo è tornata a un livello di spread quasi al 7%, ricordiamo che quando cioè i rendimenti dei BTP a 10 anni spagnoli si sono avvicinati al 7%, sopra al 7% è il cosiddetto punto di non ritorno, cioè tu non riesci più a ripagare, è un po' come, se mi passate il termine, lo strozzinaggio, se uno ti presta dei soldi, un tasso di interesse altissimo, è praticamente impossibile che tu riesca a ripagarlo. Il 7% viene considerato il punto, diciamo, lo spartiacque tra un tasso alto ma ancora ripagabile e un tasso alto sul debito ma irripagabile. Questo nel giorno, Adriana, in cui vedo molti ascoltatori che scrivono su questo, la Germania ha collocato 3 miliardi e 3 di botta 6 mesi, di bund a 6 mesi, con un rendimento ancora più negativo, e cioè la gente si chiama fly to quality in maniera estrema, in maniera quasi folle, secondo me. Cioè, pur di non rischiare, uno preferisce prestare i soldi alla Germania e ottenerne un po' di meno dopo averli prestati, cioè pagare quasi una commissione per avere prestito i soldi, come se ti chiedessi: Adriana, dammi 100.000 euro, te ne ritorno 99.000 e tu sei contenta perché in questo modo intanto io non te li sei bruciati. Beh, insomma, qui c'è un problema obiettivamente di un paese che si sta finanziando a discapito degli altri con tassi negativi. Sì, certamente, questo è il grande vantaggio che ha la Germania. In questo momento ci drena i capitali, la svalutazione dell'euro rispetto al dollaro beneficia il suo export, insomma sono tutte cose che ci siamo detti tante volte, ma che si accentuano in un momento come questo di confusione, di confusione delle lingue, direi, no? Perché è abbastanza paradossale che solo una settimana fa il vertice si dica una cosa all'unanimità e poi adesso si arrivi addirittura a creare nuove riunioni per arrivare a delle decisioni. Beh, molto molto italiana come politica da Merkel in questo senso, dice una cosa, poi cambia idea. Però mi dai una previsione, perché gli ascoltatori scrivono: ma ci aspetta un'altra estate bollente. Beh, come temperature qui sicuramente, visto che arriva un'altra onda di caldo. Anche per l'euro. Secondo te a fine luglio arriverà l'accordo? Cioè, io penso che per qualunque speculatore la cosa migliore che possiamo fare è mostrare di nuovo un'Europa balbettante, che dice una cosa, poi ci ripensa, ma sì, ma no, ma forse sì, forse no. È questo che ci ha portato allo spread, i 200 punti nostri, li ha chiariti bene Ignazio Visco, ma i 300 punti in più è questo che ci ha portato a questi livelli di spread. Ma io credo che purtroppo sarà così, che l'accordo arriverà in ritardo come al solito, quindi ha un costo accresciuto per i paesi più vulnerabili, tra cui il nostro, e naturalmente con una credibilità minima, perché questa fatica di fare gli accordi, soprattutto quando poi prima sembravano unanimi, verrà pagata sui mercati, ma naturalmente non la pagheranno i responsabili, in questo caso i paesi nordici, ma la pagheranno quelli del sud, che stanno appunto... Vabbè, la Germania continua, alla Germania conviene trovare finanziatori per il suo debito, perché ottiene 100.000 euro e ne deve ridare 99.997. Certo. E gli imprenditori tedeschi possono andare agli imprenditori tedeschi conviene non quotare l'azienda, ma andare in banca e chiedere soldi, perché i tassi sono praticamente sotto il livello di inflazione, quindi tu puoi ottenere 100.000 euro e ritornarne al netto dell'inflazione 99.997. E in più la debolezza dell'euro favorisce l'export, dunque tedesco. Cerchio perfetto. Diciamo che io purtroppo so che alcuni di voi dicono che sono ossessionato dalla Germania, ma c'è un paese che sta guadagnando in maniera, a mio avviso, inaccettabile dalla crisi. Allora, se tutti siamo in guerra, non ci possono essere gli speculatori da guerra, quelli che poi con la storia, che col fatto che si raziona il pane, speculano sul pane. A mio avviso, in questo momento, la Germania sta ottenendo dei vantaggi talmente forti dalla crisi di alcuni paesi dell'area euro da far pensare a una specie di conflitto di interessi, la dico tutta, e quindi di quasi un aiuto di Stato. Tutti vogliono mettere i soldi della Germania perché non si fidano degli altri paesi e lei ne ha dei benefici. Mi chiedo perché un tedesco dovrebbe essere solidale visti i benefici che ha. Dunque, altre agenzie che adesso passiamo alla borsa, chiaramente che stanno uscendo sul mercato. Fate notare, sì, la Francia, l'abbiamo detta, anche la Francia oggi ha avuto tassi per la prima volta negativi nel cercare finanziatori per il suo debito, cioè si preferisce mettere i soldi anche in Francia piuttosto che tenerli sotto il materasso. Voi mi dite, ma che senso ha se non recuperi neanche l'inflazione? Sono d'accordo, infatti non è un nonsense, cioè prestare uno 100.000 euro per averne indietro 99.000 è un nonsense, non ha senso, a meno che tu non ritenga che i 100.000 euro a casa tua possono essere porti via dai ladri, temi che vi siano i ladri, allora preferisci darli a qualcuno che ha una casa più sicura e in cambio di fatto invece che prestarglieli, il prestito sei tu a pagarlo, non lui. Perché non li vuoi tenere in casa tua? È quello che sta capitando, cioè ci sono migliaia di italiani che stanno facendo una scelta, secondo me, folle di comprare Bund pur di non tenerli in titoli di Stato, perché dicono, male che vada, almeno questi ce li ho, ne ho lo 0,03% in meno, ma li ho. Mi sembra una scelta folle. In realtà c'è un altro elemento di cui vorrei parlare che secondo me è alla base del fallimento, se tanto mi dà tanto, di questo vertice Eurogruppo di oggi. Beh, c'è un ascoltatore che scrive una cosa che secondo me sintetizza tutti i problemi che ha l'Europa in questo momento e il motivo per cui continuiamo ad aprire autostrade per la speculazione mondiale e facciamo fuggire tutti gli investimenti, quelli buoni. La moneta cattiva scaccia quella buona per quello che riguarda l'euro in questo momento. Scrive un ascoltatore infatti, non è pensabile che la crisi sia risolta dall'unico paese che ne sta traendo vantaggio. Gira e rigira, analisi, non analisi, e questo è il punto, dai. Insomma, se anche la Germania avesse un effetto negativo da questa crisi, sarebbe molto più disponibile a ragionare su come uscirne, siccome ne ha dei benefici. Oh, ragazzi, i soldi sono soldi per tutti, sia per i bavaresi che per i lombardi, che per gli spagnoli, per i cantabrici, quant'altro. Insomma, allora, la Germania ha dei vantaggi enormi tra un imprenditore tedesco e un imprenditore spagnolo o italiano. Cioè il costo del denaro è di 5, 6, 7 punti più basso per i tedeschi. E volete che a loro faccia schifo questa situazione? Dai, è vero che a ragionare male si fa peccato, fatemi citare Andreotti, ma ci si azzecca. Come vanno gli spread? 470 punti in questo momento. Quali altre soluzioni? Beh, che precipiti talmente la situazione che anche i tedeschi la smettono di esportare in Europa. Però questo vuol dire che noi a quel punto siamo in ginocchio ancora più di adesso. C'è chi scrive anche, comunque alcune banche italiane consigliano Bund e investimenti in dollari, avete ragione, e poi c'è chi mi fa impazzire che dice ma non possono aprire le banche tedesche in Italia, certo ci sono già, non è che Deutsche Bank non sia per esempio presente in questo paese, ma qualunque persona può andare in banca e comprarsi Bund. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. E poi adesso facciamo il commento sui singoli titoli, ma com'è che Milano oggi con tutte queste tensioni, lo spread a 4,70 guadagna, è l'unica borsa che guadagna, più 0,60, mentre Parigi perde lo 0,40, Francoforte lo 0,35, Londra mezzo punto percentuale di calo. Sì, infatti Milano e l'America, scusami, perde uno 0,55 anch'essa. Sì, Milano è stata l'eccezione, come già dicevi tu, diciamo l'attesa in vano per qualche risultato concreto dell'Eurogruppo e di oggi ha depresso sul finale quasi tutti i listini, sembra che ogni decisione concreta sia rinviata al 20 luglio, invece Milano è stata l'eccezione che ha chiuso positiva tra Inave e Piazza Affari, sono stati alcuni titoli industriali come Impregilo su cui ci sono notizie specifiche, in particolare poi anche le banche, nonostante l'allargamento dello spread, hanno chiuso in rialzo, soprattutto Unicredit, per cui c'è l'attesa per il CDA di domani, quindi fattori specifici su alcuni titoli oggi hanno sostenuto Piazza Affari che ha chiuso con la migliore prestazione a livello europeo. E questo era il cappello e allora la borsa. Singoli titoli, in pregiro si scalda la lotta in vista del 12 luglio, domani ripeto avremo Claudio Costamagna nostro ospite, abbiamo chiesto anche a chi rappresenta l'accordo tra Gavio, quindi Gemma Grospietro, se vuole intervenire, per ora la risposta è negativa. Dopo il 12, più 5,91% in pregilo. Sì, esattamente, l'attesa ormai da giorni è per giovedì l'assemblea per capire quale sarà il nuovo assetto di vertice. Inoltre oggi ci sono notizie positive dal Sud America, perché prima aveva alzato la propria offerta per l'acquisto del 19% di Corodovias in mano a Impregilo, quindi il valore dell'operazione sale a 763 milioni, quindi ovviamente una valutazione che premia Impregilo rispetto alla precedente, quindi il mercato l'ha apprezzato e ha premiato il titolo con un più 5,91%. Telecom Italia più 3,93%. Venerdì la società ha annunciato un riacquisto di propri bond per massimi 500 milioni, è una razionalizzazione del debito e delle scadenze che al mercato è fondamentalmente piaciuta, inoltre che rimane sotto i riflettori naturalmente per la questione Telecom Italia Media, e sono arrivate 15 manifestazioni di interesse, il mercato attende novità e in attesa appunto di novità ha premiato il titolo insieme a tutto il settore TLC europeo. Ancora Unicredit, domani il CDA dovrebbe varare la riorganizzazione dell'attività, bene anche questo titolo, più 2,78%, no? Esattamente, soprattutto secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere varata una riorganizzazione dell'attività in Italia, che negli ultimi trimestri sono quelle che un po' hanno faticato e secondo molti osservatori potrebbero essere quelle che premiare il titolo se e quando ci sarà un rilancio, quindi il mercato attende domani per capire cosa sarà messo in campo dal management dell'istituto bancario, che ha trainato anche tutti gli altri titoli bancari italiani. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, finiamo l'approfondimento di borsa e poi passiamo alla spending review, alla luce anche di quello che oggi riporta il Sole 24 Ore sulle regioni e comuni che più spendono e anche sulle regioni autonome che non ne escono benissimo, e quello è stato speciale, quanto a spesa pro capite. Poi uno dice, ma i servizi erogati? Vabbè, ho capito, servizi erogati, però guardiamo anche i costi ogni tanto, non è che siccome eroghi un servizio puoi spendere quello che vuoi, ma adesso ci arriviamo. Volevo concludere invece con i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore, sia Paolo Paronetto, l'analisi di borsa, dopo aver parlato dei titoli che bene si sono comportati oggi, Milano è l'unica piazza positiva tra quelle principali. Flettono A2A meno 4,1%, Finmeccanica meno 2,60%. Se riusciamo a citare anche Unipol e Fondiere Assai, che Unipol sulle privilegio è il peggior titolo, meno 13,70, sulle ordinarie meno 6,70, Fondiere Assai meno 12,50%. Sì, per quanto riguarda Finmeccanica è stata tra le peggiori per tutta la giornata, il titolo appunto ha perso il 2,6%, qui i timori sono sui conti della controllata Ansaldo Breda, secondo indiscrezioni potrebbe chiudere il 2012 con una perdita intorno ai 300 milioni dopo i 700 milioni dell'anno scorso, e inoltre proprio questi conti starebbero rallentando la possibile vendita della società. Allo stesso tempo il numero 1 Orsi ha confermato comunque il piano di dismissioni, e di questo ha beneficiato invece Ansaldo STS, che ha guadagnato il 2,7% proprio sull'ipotesi che possa essere coinvolta da questo piano. Quanto è Unipol e Fondiare Assai a tutta la galassia Ligresti, continua a essere penalizzata dallo stop della Consob, che ha di fatto imposto il rinvio degli aumenti di capitale Unipol e Fonsai, che sono propedeutici all'integrazione tra le società. Dopo aver perso in doppia cifra già venerdì, Fonsai ha chiuso in calo del 12,5%, ma anche Unipol meno 6,7%. Sì, la vicenda su Unipol, appunto il prezzo, diciamo, e l'opinione della Consob, quindi il no al prospetto sui mezzi di capitale, vedremo che novità arriveranno in settimana. Grazie intanto a Paolo Paronetto, e adesso rispondo anche a una domanda che mi arriva spesso quando parliamo di Germania, ma insomma, se lei fosse tedesco presterebbe i soldi all'Italia? Allora, la domanda posta così secondo me è mal posta, e spiego perché. Perché se si vuole stare assieme è chiaro che non si può mandare a fondo anche chi male si è comportato. Non voglio rievocare il figlio del prodigo, ma insomma, il punto vero secondo me è i paesi che hanno gestito male le loro risorse stanno facendo i compiti a casa. Nel caso italiano, a mio avviso, sì, con sforzi, con errori, quello che si vuole, ma insomma, le tasse sono aumentate, l'IMU è stata pagata da tutti gli italiani, le pensioni sono state alzate, una riforma del mercato del lavoro, piaccia o non piaccia, ma è stata fatta, insomma, ci si sta muovendo la spending review, vediamo adesso cosa porterà. Per cui è come dire, ma è giusto che un lombardo paghi per un siciliano? È giusto che uno paghi, che il più ricco paghi per chi ha meno? Il problema è poi controllare come vengono spesi questi soldi. Ok, ma non dire no, allora, perché sennò si va verso la secessione, che era quello che voleva la Lega per quello che riguarda casa nostra, allora diciamoci che l'obiettivo è la secessione e quindi l'esplosione dell'euro. Dopodiché, attenzione, perché se esplode l'euro la Germania pagherà anche lei i suoi danni, non riesce più a esportare con un euro così debole per loro, ti tocca tornare al marco, e che vale un bel più varrebbe un bel po' più dell'euro. E giochi, e noi potremmo svalutare con un dramma enorme nei primi anni, ma con un buon andamento per il nostro export. Per cui il punto non è se le regioni più ricche debbano aiutare chi è più in difficoltà. La risposta è sì. Il problema non. Poi andiamo a controllare cosa succede a questi soldi. E proprio per controllare che cosa succede a questi soldi, ahimè, spero che non ci ascolti nessun tedesco in quello che stiamo per dire. Perché Sole 24 Ore oggi riporta un'analisi di come vengono spesi i soldi dalle regioni e dai comuni italiani. E allora, se mi date una base, no? Un po' tanto. Allora, la cancelleria e il materiale tecnico informatico, fotocopiatrici, monitor, tastiere, penne e carta. In Lombardia, la Lombardia spende 9 euro ogni 100 abitanti, cioè 0,09 per ogni abitante, il Piemonte 55 euro per ogni 100 abitanti, la Sicilia 100 euro per ogni abitante, quindi le penne, la carta, le fotocopiatrici, i monitor, le tastiere della regione Sicilia sono tutte di altissima qualità, visto che costano 10 volte. 11,3 volte per la precisione in più rispetto a quelle lombarde. Per gli studi, le consulenze, le indagini, i gettoni di presenza, una regione come l'Abruzzo ha speso 40 euro ogni 100 abitanti, la Sardegna 683 euro, ma consulenze importanti, di peso, premi Nobel. E poi per le inserzioni su giornali e riviste, per far conoscere le attività delle regioni, la Lombardia spende 3 euro all'anno per ogni 100 abitanti, il Lazio, scusatemi, è il più virtuoso. La Lombardia ne spende il doppio, 6,2 euro. La Calabria ne spende 4 volte tanto, 11,3 euro per pubblicizzare su giornali e riviste la sua fondamentale attività. Dico, speriamo che non ci siano tedeschi in ascolto, ma invece è ospite nostro l'autore dell'inchiesta di oggi su Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora Gianni, quello che emerge è una, diciamo tutta, una discrepanza enorme tra i costi pro capite, cioè per abitante, delle varie regioni, e se posso aggiungere, ingiustificata. Cioè, io posso capire che uno poi debba spendere per avere anche un servizio, ma non si può immaginare che l'asilo di una certa regione sia 10 volte più bello dell'asilo di un'altra, sarà il doppio. Perché insomma vedo che le regioni a statuto speciale spendono in euro per abitante la Valle d'Aosta 1.302 euro per abitante, Bolzano 500, la Sardegna molto meno 197, il Trentino 195, la Sicilia 150, il Friuli 146 e su quella a statuto ordinario la Basilicata spende 147 euro ad abitante, la Campania 113, la Puglia 96, insomma non mi sembra che siano regioni che proprio hanno questi servizi pazzeschi, mentre la Lombardia ne spende 81, cioè la metà della Basilicata quasi, il Veneto, che servizi buoni li ha, 43, cioè ne spende un quarto della Basilicata, l'Emilia, da sempre citata come regione per i servizi, 36 euro, quindi un quarto della Campania e un quinto della Basilicata. Ora, è noto che i servizi in Emilia siano peggiori rispetto a quelli della Campania e della Basilicata, però insomma, è veramente una giungla, Gianni. È una giungla, infatti, più che i servizi, questo tipo di voci, che è quella presa in considerazione nella norma sulla spending review votata la settimana scorsa, fotografa le inefficienze. All'inizio facevi l'esempio della carta, no? Del materiale della cancelleria, che in Sicilia costa, in rapporto agli abitanti, in un anno 11,2 volte più che in Lombardia. Questo non perché in Sicilia comprino la carta, diciamo, pergamena, il filigrano, roba, di Fabriano, qualcosa. Ma perché bisogna riempire di carta, penne, monitor e così via uffici dove lavorano 20.000 persone. Ecco il motivo. Mentre in Lombardia ne lavorano poco più di 3.000. Allora, questo tipo di voci di spesa, alcune di queste voci di spesa vanno proprio a fotografare l'inefficienza, e la spending review prova a far passare il principio: più sei stato inefficiente, l'anno di riferimento è il 2011, più ti taglio. La cosa curiosa è che appunto questi dati sono monitorati giorno per giorno in tempo reale dal Ministero dell'Economia, che sa tutto. E sapeva anche prima, diciamo. Esatto. Il passo avanti di questa norma, proprio per superare i famosi tagli lineari, un tot per abitante, che facevano schifo a tutti, ma hanno sempre fatto tutti i governi di destra, governi di sinistra, senza nessuna differenza, è proprio utilizzare questo monitoraggio telematico quotidiano, giorno per giorno, per far vedere, per andare a distribuire i tagli a chi è più inefficiente. Bene, questo per quello che riguarda, bene, si fa per dire, questo per quello che riguarda le regioni, ma anche sui comuni non c'è da scherzare. Se me li date allora così una base che mi permette di commentare le spese dei comuni. L'Aquila, spese per abitante pro capite 3.068 euro, Milano 1.146 euro, Venezia 1.000 euro, Roma 960 euro, Trento e Perugia 700 euro, Cagliari 680, e poi insomma, cioè, anche qui non c'è una giustificazione rispetto a quello che vediamo, perché il comune di Torino ne spende 425, cioè spende un terzo anche rispetto a Milano. Il comune di Firenze ne spende 540. Devo dire che Bolzano in questo senso è virtuosa, spende 378 euro per abitante, parliamo delle uscite per consumi intermedi, ma virtuosa è anche Catanzaro, 408 euro, Campobasso 490 euro, Napoli 530 euro. Perché avete scelto, chiariamolo a tutti, le spese per consumi intermedi? Sì, infatti nella classifica dei comuni si vede il difetto della norma. Le spese per consumi intermedi le abbiamo scelte, non le abbiamo scelte noi, le ha scelte il governo e l'ha scritto nella norma. Il problema è che nei comuni i consumi intermedi sono anche i contratti di servizio per i trasporti e per i rifiuti. Quindi dove c'è una gestione, dove ci sono più servizi, si spende di più. Per questo, per esempio, L'Aquila, il dato di L'Aquila è determinato dalla, dalla ricostruzione del terremoto, e quindi dovranno tenerne conto. Però perché Milano in rapporto agli abitanti spende il doppio circa, anzi sì, il doppio di Napoli, o quasi il triplo rispetto a Catanzaro? Qui c'è un problema di intensità dei servizi. Allora, questo è il problema di questa norma. Cioè, per evitare, visto che la di tagliare il trasporto, la cosiddetta macelleria sociale, cioè che il comune spende, ma spende perché eroga più servizi. Esatto. Quell'altro esatto. Spende meno, ma non c'ha i servizi. Allora, un conto è misurare l'inefficienza, la carta, voglio dire, o il vestiario le divise degli uscieri piuttosto che della polizia municipale. È giusto che ci sia un costo standard in rapporto agli abitanti, perché quello è. Però sulla servizio rifiuti, per esempio, in un comune dove c'è una raccolta differenziata del 70%, si spende di più, perché la raccolta differenziata tu la devi fare casa per casa. Allora non bisogna andare a tagliare queste cose, e non vanno nemmeno considerate, diciamo, come parametri di mancata virtuosità. No, perché lì si rischia veramente la macelleria sociale. Io su questo infatti sono Facciamo invece un esempio sempre nei comuni, no? Il vestiario della polizia municipale. Allora, a Milano nel 2011 è costato 460.000 euro in totale, a Roma 6,2 milioni. Ora va bene che Roma è più grande, però da 460.000 euro a 6,2 milioni ci passa 12 volte. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dicevamo, le differenze che emergono nell'analisi di quanto spendono le regioni e i comuni sono impressionanti. Ha fatto bene Gianni Trovati a dire: attenzione però, occorre che il parametro si leghi anche ai servizi erogati, se no non si spiega perché Napoli, come comune per esempio, per abitante, spende la metà di Milano, allora è chiaro che offri meno servizi. Mentre ci sono delle voci ingiustificabili, le divise dei vigili, i 6 milioni di Roma contro i 400.000 euro di Milano, e le spese per cancelleria, ce ne sono anche un altro paio di chicche, eh? Perché anche il luogo comune che al sud delle regioni siano peggio amministrate tout court viene un po' sfatato. C'è obiettivamente, inutile girarci attorno, uno spreco, la regione Sicilia su tutte, ma anche la Calabria e la Campania non scherzano. Però, sentite questa, quanto costa la manutenzione degli automezzi delle regioni, gli automezzi di qualunque genere delle regioni? Beh, pensate che in Campania costa 58 volte di più rispetto a quello che costano in Puglia. La cosa che fa impressione è quello che però ricordava Gianni Trovati, cioè questi numeri, ben ha fatto il governo a metterci mano, sono numeri già conosciuti, sono numeri studiati e monitorati. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Ezio Melzi, direttore generale di Bravo Solution, buonasera. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Dicevo che voi avete vinto, siete chiamati dal governo britannico, da Cameron, per rivedere e gestire la loro revisione dei conti pubblici, la loro spending review, ma anche per le Olimpiadi, per gli acquisti che devono fare i britannici per le Olimpiadi di Londra. Insomma, in Italia non va chiamato nessuno, all'estero qualcun altro va chiamato? Ma in realtà possiamo dire di essere fortunati, nel senso che all'estero ci hanno chiamato in molti, nel senso che oggi lavoriamo anche col governo messicano e prossimamente inizieremo a lavorare col governo degli Emirati Arabi. Però detto questo, se mi consente alcune considerazioni sui commenti che lei ha fatto con il suo ospite, io sono assolutamente d'accordo e un promotore delle iniziative di confronto, come chiamano o come dicono gli anglosassoni, delle iniziative di benchmarking. Però secondo me dobbiamo essere all'inizio prudenti e confrontarci su parametri che non danno adito a strumentalizzazioni. Faccio un esempio su quello che voglio dire. Le considerazioni che facevate voi prima, spesa verso servizi, purtroppo lasciano adito a delle strumentalizzazioni, perché qualcuno può sempre dire sì, però non tenete conto dei servizi, e quando si dice sì, però non tenete conto dei servizi, è come bocciare le iniziative di benchmarking. Allora io direi che forse è più interessante iniziare a fare benchmarking su tutti quei parametri di spesa che non lasciano adito ad interpretazioni. C'è la sacca di plasma, no? Cerco di tradurre, la sacca di plasma che costava 16 volte in più in Calabria rispetto alla Val d'Aosta, quello è il benchmark, certo. Cioè il riferimento si può fare, è plasma, ma certamente, tranne quello di San Gennaro, tutto il resto dovrebbe essere, no? E quindi la mia idea è confrontiamo perimetri confrontabili su voci di spesa che non lasciano adito a strumentalizzazione. Certo. Le divise dei vigili vanno bene o no? Esattamente, la divisa dei vigili. La cancelleria va bene? La cancelleria è molto interessante, per esempio i consumi di riscaldamento per metro quadro di zone che hanno stesse condizioni meteorologiche, per esempio, le spese di pulizie per metro quadro, per esempio, posso citare centinaia di casi e di indicatori di performance. E poi l'altro suggerimento che darei, facciamoli conoscere ai cittadini. Sì, giusto, giusto. Perché questa è la leva. Noi dovremo arrivare ad un certo punto in cui la revisione della spesa si fa per un processo dal basso, non dall'alto, e per fare un processo dal basso dobbiamo innescare la reazione degli amministratori. Gli amministratori reagiscono se sono stimolati dai cittadini, sono gli elettori. Se si sentono un po' sputtanati, passatemi il termine, dai cittadini, perché insomma se tu scopri che nella tua regione, nel tuo comune, l'asilo o il servizio ti costa quattro volte in più rispetto alla regione adiacente, poniamo il comune adiacente, e non vedi la provincia vicina. Gianni Trovati, per concludere, diceva Melzi, ma insomma, attenzione, per non finire in un cul-de-sac di chi poi dice ma attenzione, voi non sapete che servizi eroghiamo, prendiamo solo le voci più confrontabili per essere... No, ma infatti siamo talmente d'accordo che questo era il senso della pagina che abbiamo fatto, perché là il difetto, diciamo, che c'è per ora in questa prima norma, che poi va affinata, eccetera, è che hanno preso, senza andare nel tecnico, una voce che c'è nel bilancio dello Stato, i consumi intermedi, e l'hanno spostata para para su regioni ed enti locali. Il problema che dicevamo è che, per esempio, dentro nel caso degli enti locali, dentro quella voce ci sono anche i servizi. Allora affiniamo il parametro e andiamo a beccare quelle voci di ordinario funzionamento che devono essere uguali ovunque. Allora, grazie a Ezio Melzi, grazie a Gianni Trovati. Volete da me un commento sulla frase di Monti, sul il fatto che le dichiarazioni di Squinzi alzino lo spread? Mi sembra un po' improbabile. Uno può pensarla come vuole sulle dichiarazioni del presidente Confindustria di ieri, ma dire che alzano lo spread mi sembra obiettivamente eccessivo. Se no dovremmo dire la stessa cosa di tante dichiarazioni dei ministri del governo Monti, dei sottosegretari, abbiate pazienza. Dopodiché uno su quello la può sulle dichiarazioni di Squinzi la pensi esattamente come vuole. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.